Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 10 di A Tavola con Fabiola, questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di stasera è salsa ai porri. Ingredienti: porro, olio di oliva extravergine, vino bianco secco, panna, sale e pepe quanto basta. Preparazione: private i porri delle radici, delle foglie esterne e della parte verde più dura. Lavateli accuratamente e tagliateli molto sottili. Ponete un tegame sul fuoco e fate scaldare l'olio. Aggiungete i porri tagliati, fateli rosolare a fuoco moderato. Insaporite con il sale ed il pepe. Bagnateli con mezzo bicchiere di vino bianco. Continuate la cottura a tegame coperto e a fuoco bassissimo per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se è necessario, aggiungete acqua nella cottura. A cottura ultimata, mettete il composto in un mortaio o in un frullatore. Aggiungete la panna, un pizzico di sale e di pepe. Mescolate fino ad ottenere una salsa omogenea. Ponetela di nuovo sul fuoco e fatela scaldare poco. Aggiungete la panna a 6 cucchiai e continuate a mescolare. Il vino consigliato: la vernaccia di San Gimignano. Buon appetito! Questa era la ricetta numero 10 di A Tavola con Fabiola qui a Radio Big World. Alla prossima ricetta!